nasce tanti anni fa, perché io dal 1992 suono con questo caro amico che si chiama Carlo Tumschit. Suonavamo nei 400 colpi, che è un gruppo storico dello ska italiano. Adesso continuiamo a suonare con un gruppo che si chiama Ludel Bello, sempre musica ska. Nel frattempo siamo cresciuti, ho cominciato a fare il regista, lui il cardiologo, e ha questa associazione che si occupa appunto di informare, raccogliere fondi su temi legati alla cardiologia e non solo, e ha deciso di scrivere questa canzone per informare su questo punto molto importante, che se hai sintomi conclamati di un infarto e chiami il 118, hai il 40% di possibilità in più di salvarti, piuttosto che se prendi un tuo mezzo e cerchi di raggiungere l'ospedale. E dopodiché mi ha chiesto di fare il video, abbiamo chiesto anche agli Schiantos di suonare la canzone, e così si è creato un po' alla volta tutto il progetto. La seconda domanda che vorrei farle è proprio in merito agli Schiantos, ovvero perché proprio loro sono stati scelti? Schianto sì, e appunto con la canzone in mano, che tra l'altro di cui le parole ha scritto Gabriele Cosentino, che è un amico di Carlo, che ha coinvolto un po' di amici che fanno questo mestiere, e ci siamo chiesti chi coinvolgere per fare per suonarla, e abbiamo pensato agli Schianto. Io da tanti anni in passato avevo fatto varie cose con Freak, che purtroppo adesso non c'è più, però comunque mi sembrava il gruppo giusto per suonare questo pezzo, gliel'abbiamo chiesto, loro hanno subito accettato e l'hanno arrangiata in modo bello, secondo noi, insomma funziona molto bene, è suonata, e poi dopo Fabio, Dandy Bestia, Fabio Testoni, ha accettato di l'ha cantata e poi anche di partecipare a questo video come protagonista, diciamo così. Per trasmettere il messaggio che si voleva trasmettere con questa canzone, quali sono gli elementi a cui si è data maggiore enfasi nella clip, nel video? Sì, nel video io di solito, se faccio video, non mi piace essere didascalico, cioè magari rifletto sul senso della canzone, mi invento qualcos'altro. In questo caso, avendo questa finalità, ho proprio messo in scena quello che viene ribadito, quello che viene detto nella canzone, quindi nella clip c'è proprio il racconto di questo personaggio che litiga con la fidanzata, poi ha questi sintomi di un infarto e decide di prendere la macchina e si schianta, cosa che può succedere, e quindi ho raccontato la sorella e l'ho affiancata a questa specie di piccolo musical con gli infermieri che ballano per dare un po' di vivacità e anche appunto in contrapposizione alla sedentarietà del personaggio, che è un altro punto, cosa da evitare, insomma, come ci dicono tutti, bisogna fare movimento, eccetera, eccetera. Quindi la clip l'ho pensata così.